impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Ernesto Gismondi, Navigare in piena luce, di Anna Marino. La mia storia nasce da mio padre, che aveva a Sanremo il cinema Super Cinema. Erano ancora i tempi in bianco e nero, quindi si capiva proprio bene cosa vuol dire buio, luce. Ecco, quello che mi aveva sempre emozionato è questo rapporto, questa possibilità di, pur essendoci tutto chiaro giorno, essendo il film anche proiettato di giorno, questa possibilità di rendere la vita esterna attraverso questa macchina meravigliosa che era il cinema. Da lì mi sono occupato sempre un po' di più di illuminazione. Ernesto Gismondi è il fondatore, presidente e amministratore delegato di Artemide Group, uno dei leader mondiali nel settore dell'illuminazione residenziale e professionale d'alta gamma. Classe 1931, è nato a Sanremo in provincia di Imperia. Festeggia il suo compleanno ogni Natale, proprio il 25 dicembre. Nel 1957 ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 ha conseguito la laurea in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma. Si è allontanato molto giovane dalla Riviera, senza mai recidere però il legame con il mare. Io sono venuto via da Sanremo quando avevo, mi pare, circa 18 anni, cioè alla fine del liceo mi sono iscritto all'università e ho cercato un'università sufficientemente lontana da Sanremo per poter studiare tranquillamente a Milano, e anche perché mi piaceva moltissimo il Politecnico, gli studi del Politecnico. E questo ha determinato chiaramente l'indirizzo completo di tutta la mia vita, perché da quel momento a Sanremo sono solo tornato o per le vacanze o per dare un aiuto a mio padre a mettere i manifesti e le luci nell'ingresso del cinema. La storia della sua famiglia e della sua impresa sono legate alle coste sanremesi e alla navigazione a vela. E i ricordi che più hanno insegnato all'uomo e all'imprenditore sono le sfide in mare. La passione per il mare mi è venuta dopo, quando, diciamo, una volta laureato, una volta andato un pochino più avanti, una volta guadagnato un po' di soldi, ho comprato la prima barca, il dinghy, e da lì ho cominciato a navigare, a quel punto con grande interesse. Per cui io non sono uomo da scalate, la ragione è semplicissima, peso così tanto che all'idea di tirarmi su mi sento male. E invece è facilissimo galleggiare in mare, e quindi di vivere la vita del mare, che è splendida. A me interessa perché è una sfida, andare in mare con le barchette, voglio dire, con barca a vela, con questi mezzi qua, è una sfida. Tu sai come comincia, ma non sai mai né come cammina e non sai minimamente come finisce. Devi quindi stare attento, verificare che quello che fai sia accettabile, sia a rischio e normale, perché se no non ci sarebbe nemmeno un grandissimo divertimento. Per esempio, la mia grande passione sono le regate, che mi interessano perché sono un confronto, sono una sfida vera. Cioè, tu ti metti lì tutti assieme, ognuno con la sua barca, ognuno di equipaggi diversi, con la propria barca, con le proprie capacità, le proprie voglie, e tutti che hanno voglia di vincere. Dai primi anni 60, Gismondi si dedica alla progettazione e alla produzione di apparecchi per l'illuminazione, fondando con il designer Sergio Mazza Studio Artemide SAS, dal quale si svilupperà il gruppo Artemide. Si afferma come designer internazionale, partecipando, come uno degli ideatori, a Memphis, movimento di avanguardia che ha determinato una profonda evoluzione del settore del design in Italia e nel mondo, e disegnando diversi apparecchi di successo per il gruppo. Sotto la sua guida, il gruppo Artemide vede negli anni crescere la propria quota di mercato e incrementare la presenza internazionale, divenendo uno dei principali operatori nel settore dell'illuminazione dei design, con un segreto: unire regate e impresa. Non è difficile. Poi le dirò una cosa che io trovo abbastanza fondamentale: non è che si nasce imprenditori e non è che si diventa imprenditori, uno va avanti nella vita, a un bel momento si scopre che a fare quelle cose, prendere quelle decisioni, si accorge che per lei, dice in questo caso, diciamo per me, prendere certe decisioni era facilissimo, cioè era normale, e per altri significava aiuto, come facciamo, verifichiamo, studiamo, mettiamo insieme compagnia. Non arrivavano mai da nessuna parte, perché deve essere capace di prendere delle decisioni, di valutare il rischio, mettere anche la terza mano di terza ruoli se serve, oppure avanti tutta. Ancora adesso faccio regate e impresa, sono queste fondamentalmente le due cose che faccio, perché per me la montagna, che mi piace molto, la vedo tutta vestita di bianco quando si va in discesa, in salita è già più dura, e poi invece da aprile in avanti si fanno regate. Negli anni si sono susseguiti i riconoscimenti. Il premio Compasso d'Oro alla carriera nel 1995 e gli European Design Prize poco dopo, ma anche gli incarichi di responsabilità e spessore. Dal 1964 all'84 è stato professore associato di motori per missili al Politecnico di Milano. È stato vicepresidente dell'ADI, l'Associazione Design Industriale, e ha ricoperto numerose cariche nell'ambito di Assolombarda, Federmeccanica, Confindustria, Ente Autonomo Fiera di Milano e presso il Ministero per l'Università e la Ricerca. L'elenco è lungo e arriva fino ad oggi. Nel 2008 ha ricevuto il premio Ernst & Young, l'imprenditore dell'anno 2008, per la categoria Innovation, oltre alla prestigiosa nomina a Cavaliere del Lavoro conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 19 novembre 2009 ha ricevuto il premio Ernst & Young, l'imprenditore dell'anno 2009, per la categoria Communication. Sembra che ci si faccia l'abitudine, ma per Gismondi questa crescita nella fama fa sempre effetto. Ma c'è qualcosa di più importante. È chiaro che avere riconoscimenti, che non sono solamente riconoscimenti del successo dell'impresa che va, cresce, guadagni, fa e compagnia. È estremamente più importante fare qualche cosa che gli altri lo apprezzino. Allora, l'apprezzamento dettato dal successo dell'azienda è il minimo, perché se quella non ha successo è meglio che vai solo in barca. E l'altra invece è avere dei riconoscimenti, diciamo, di tipo pubblici, dal solito Museo Modern Arte, i Compassi d'Oro, tanti premi tedeschi, premi americani, insomma. È importante perché è stata ed è la forza di Artemide di riuscire a fare dei prodotti che siano diventati abbastanza, dire la parola universale è troppo grosso. Bastano globali per il paese, per il mondo dove viviamo. E questa è stata la prima intuizione che ho avuto, era quella che o esporti o riesci ad esportare e anche bene, oppure non sei nessuno. Cioè, essere principe nel proprio villaggio, sì, forse usava i tempi che avevano i castelli, facevano quelle cose lì. Oggi come oggi questo non c'è. Da una partenza locale a un arrivo internazionale. Il gruppo Artemide ha sede a Prignana Milanese, ma ora ha dimensioni globali. Opera attraverso 24 società controllate e partecipate e vanta una rete distributiva tra cui spiccano 51 showroom monomarca nelle più importanti città del mondo. I prodotti Artemide sono distribuiti in 83 diversi paesi, con 5 unità produttive in Italia, Francia, Ungheria e Stati Uniti, 2 vetrerie e 2 strutture di ricerca e sviluppo in Italia e Francia. Il gruppo impiega attualmente circa 750 dipendenti, di cui 59 in attività di ricerca e sviluppo. Negli ultimi 4 anni il gruppo Artemide ha registrato una costante crescita nei ricavi, chiudendo il 2008 con un fatturato di 127 milioni di euro. L'Italia è il primo mercato, seguito da Germania, Stati Uniti e Francia. Gismondi spiega qual è il filo che collega tutti i mercati in cui si muove Artemide. Il design. Artemide è nata come design. Noi ci siamo proposti dal primo momento che si progetta secondo le regole del design. Per fare questo abbiamo trovato e avuto la collaborazione dei più importanti architetti italiani, Gio Ponti, Leo Lenti, Sergio Mazza e così via, con cui abbiamo cominciato a lavorare, a fare, a progettare in quel determinato modo. Il problema grosso diventa quello successivo. Se tutto questo avviene nell'ambito di Milano e provincia, sì, va bene, puoi fare anche tutta l'Italia, va quasi bene. Quello che conta è che tu devi riuscire ad andare da altre parti e andare a trovare chi sono quelli che hanno la cultura del design. Nel caso nostro, di quello che facciamo, vuol dire avere una cultura che ti fa scegliere quel prodotto. La crisi che cosa ha voluto dire e come si affronta? Gismondi ha un suggerimento anche per questo. La risposta al problema della crisi è questo. Noi abbiamo fatto una società molto internazionale. Abbiamo 17 società Artemide nel mondo, vanno quindi dall'Argentina al Canada, agli Stati Uniti, fino all'ultima, che non, l'ultima non è il Giappone, c'è ancora l'Australia come nostra società, siamo in Cina, siamo a Hong Kong. Perché siamo? È perché quando uno vuole conquistare un mercato, cioè conquistare vuol dire entrare nel mercato, non può entrare solo cercando di dire qui c'è la mia roba, comprala perché è bella. Deve prima di tutto fare un atto di fede in quel mercato e spendere i nostri soldi là ed avere dei buoni risultati, ma li ha solamente se uno riesce a distribuire il rischio su tanti paesi. Che crollino tutti assieme, allora bene, se crollano tutti assieme abbiamo capito che forse è meglio andare in barca e a vela, almeno non c'è nemmeno bisogno di petrolio. Per far durare nel tempo un'impresa e compiere il passaggio generazionale, Gismondi ha un suo campo di regata, un tracciato in cui veleggiare. Forse sono proprio nato testone, non so, egoista, perché vado avanti sempre pensando aiutatemi, siete bravissimi, venite, fate con me, manager stupendi e così via. Poi quando è il momento opportuno faccio finta di niente, dico si fa così. E questo rende un po' difficile questo passaggio generazionale, vuol dire avere detto delle generazioni, cioè un figlio, una figlia, una moglie, persone istruite, preparate che possono seguire e continuare questo tipo di operazione. Strutturare l'azienda è ovviamente importante, anche perché io ho tentato l'anno scorso di andare in borsa, quotazione in borsa. Preparato tutto, abbiamo fatto un grossissimo lavoro per organizzare l'azienda con tutte queste cose difficilissime da capire, contabilità strane, perfettamente funzionali, ma per me è impossibile, sono ingegnere, non posso calcolare quello che vuole. Comunque con dei buoni collaboratori questi scogli si superano facilmente. Ed ecco come bilancia vita e lavoro un imprenditore abituato ad andare per mare. Faccio tante di quelle regate che qualcuno si domanda chi è che fa funzionare Artemide.